Qualcuno ha detto che la storia ci insegna che non insegna niente. Questa battuta ha lo scopo di dire che spesso gli uomini non fanno tesoro del passato e così commettono gli stessi errori. Purtroppo è vero. Perché anche nella nostra vita spesso impariamo a non commettere certi falli dopo averli ripetutamente commessi. Finché si tratta di cose rimediabili possiamo anche permetterci di essere distratti. Ma quando si tratta di cose serie, cose che possono mettere a repentaglio la nostra vita, allora non imparare dal passato è per niente auspicabile. Se poi gli errori riguardano l'eternità, allora non possiamo per nessun motivo chiudere gli occhi sugli errori degli altri e dei nostri. Proprio perché è grave non imparare dagli errori degli altri, la parola di Dio spesso riporta episodi di persone che hanno commesso dei piccoli o gravi errori affinché noi possiamo trarne beneficio. In effetti l'Apostolo Paolo, ricordando ai credenti di Corinto il cammino sbagliato del popolo di Dio e le sue nefaste conseguenze, scrisse: «Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento per noi che ci troviamo alla fine dell'età». 1 Corinzi 10:11. Perciò l'Antico Testamento è per noi una scuola di sapienza. Purtroppo è una parte della parola di Dio, alquanto trascurata da molti, ma con tutti i racconti citati più o meno particolareggiati, con la narrazione di eventi positivi e negativi di uomini di Dio o meno, l'Antico Testamento deve essere ritenuto un mezzo per non commettere gli stessi errori. Proprio per questo, considerando ancora le conseguenze della disubbidienza del popolo di Israele, Paolo scrisse al momento: «Ma Dio non gradi». La maggior parte di loro, infatti, furono abbattuti nel deserto, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. 1 Corinzi 10:5-6. Dunque, se ad ogni disubbidienza si riceve le conseguenze, è più che mai opportuno imparare dagli errori degli altri per non desiderare le scelleratezze, almeno per dimostrare che a noi la storia insegna qualcosa. Nella lettera agli Ebrei, l'autore mette in guardia i suoi lettori affinché non commettano lo stesso errore che fece un uomo famoso, Esaù. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati, e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Ebrei 12:14-17. Che Esaù abbia venduto il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie è risaputo anche dagli increduli, ma mentre questo episodio viene usato come battuta, la parola di Dio ci mette in guardia per non commettere lo stesso errore. Mentre la gente scherza sul piatto di lenticchie, Dio ci ordina di non essere profani o fornicatori come Esaù. Perciò non possiamo ignorare l'episodio della vita di Esaù e neppure gli errori che ha fatto. Cosa è successo? Come andarono le cose? Le troviamo scritte nel libro della Genesi al capitolo 25. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esau giunse dai campi tutto stanco. Ed Esau disse a Giacobbe: «Per favore, lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco». Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima la tua primogenitura». Esau disse: «Ecco, io sto per morire. Che mi giova la primogenitura?» Allora Giacobbe disse: «Prima, giuramelo». Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane e della zuppa di lenticchie. Ed egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. 25:29-34. A quei tempi il diritto di primogenitura era importantissimo. Il primogenito aveva il diritto automatico di essere erede non solo della metà o della maggior parte dei beni materiali, ma anche di portare il nome del casato, cioè ereditare anche l'aspetto spirituale. È vero che Esaù e Giacobbe erano gemelli, ma Esaù era nato prima e perciò aveva il diritto di ricevere tutti i vantaggi del primogenito. Ma mentre Esaù non teneva in nessun conto questo privilegio, Giacobbe ambiva a essere l'erede spirituale del casato e aspettava l'opportunità di poterlo realizzare. E così venne l'occasione nella quale Giacobbe poteva strappare il diritto di primogenitura a suo fratello, e lo fece. Per sicurezza, Giacobbe fece giurare Esaù perché, con il giuramento, suo fratello non poteva più ritrarsi indietro. Vendendo il suo diritto di primogenitura a Giacobbe, Esaù disdegnò il bene più prezioso che aveva e divenne profano. Il profano è colui che non rispetta le cose religiose, colui che non dà il giusto valore alle cose spirituali, colui che sostituisce con delle cose materiali ciò che riguarda Dio. Poiché questo atteggiamento è abbastanza normale per ognuno di noi, la parola di Dio ci avverte di non avere un atteggiamento profano nei confronti di Dio e del suo regno. Ognuno di noi è chiamato a valorizzare ciò che è spirituale, ciò che non si vede, più delle cose che vediamo. Esaù aveva una ricchezza religiosa. Era erede delle promesse che l'Eterno aveva fatto ad Abramo, a Isacco, ma, trovandosi nel bisogno, ritenne più importante soddisfare una necessità biologica come quella di mangiare che tenere prezioso come l'oro le promesse dell'Eterno. Un figlio di Dio che è diventato tale per la fede in Gesù, è erede di grandissime promesse, è parte della famiglia di Dio, ma diventa profano quando mette in secondo piano tale chiamata rispetto alle cose terrene. Chi si vergogna di dichiarare di appartenere a Cristo, chi non professa con coraggio la sua fede, chi non si impegna nel campo di Dio, ha qualcosa di più importante, come per esempio la reputazione o la stima degli altri. Il credente che sul posto di lavoro, nelle amicizie, negli affari, in mezzo alla parentela, non è conosciuto o additato per la sua fede, ha venduto le sue ricchezze spirituali per un piatto di lenticchie. Dobbiamo chiedere a Dio la convinzione che le prove, come quella di Esaù che si è trovato nella necessità, non fanno altro che mettere in evidenza ciò che veramente teniamo di più. Se Esaù non si fosse trovato costretto a scegliere tra la sua primogenitura e un piatto di lenticchie, non avremmo mai saputo che egli disprezzava i beni spirituali. Egli li aveva automaticamente come eredità, ma Dio vuole che i beni che possediamo siano il risultato di profondo desiderio. Infatti, le promesse di Dio sono offerte con una condizione. L'evidenza che esista una condizione per la realizzazione di queste promesse è testimoniata dal fatto che nella Bibbia spesso esse sono precedute da un se. Noi siamo salvati a condizione che poniamo fede in Cristo. Abbiamo comunione con Dio se camminiamo nei Suoi comandamenti. Siamo amici di Cristo se facciamo le cose che Lui ha detto. I credenti regneranno con Cristo se saranno vincitori. Quando Esaù si rese conto dell'errore commesso, cercò di riparare i danni, ma era troppo tardi. Pur richiedendo con lacrime il diritto di primogenitura, non fu ascoltato. E così è per tutti coloro che disprezzano i valori spirituali. Davanti alle lacrime, Dio è sempre sensibile. Egli ascolta il grido dei miseri, è sensibile verso la vedova e l'orfano, ma è insensibile e inesorabile davanti alle lacrime dei pentiti, che hanno precedentemente, quando era il momento, respinto con disprezzo il regno di Dio. Se ciò che avvenne a Esaù deve essere un esempio per noi affinché non desideriamo cose malvagie, allora dobbiamo prendere sul serio la dura reazione di Dio, il quale non ascolterà il grido e il pianto dei perduti. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi, avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Allora essi grideranno a me, ma io non risponderò, mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Proverbi 1, 24-28. Esaù non era stato solo profano, ma anche fornicatore. Dalla lettura del libro della Genesi non risulta che Esaù fosse stato fornicatore, cioè avesse avuto relazioni fuori del matrimonio, ma è descritto che si sposò con donne non appartenenti alla fede di Abramo o Isacco. Donne, tra l'altro, che resero difficile la vita di Isacco e Rebecca. Sposare donne straniere è stato per Esaù un atto di coerenza alla sua scelta di disprezzare la fede del suo casato. Se Esaù aveva profanato la fede dei suoi padri, cosa c'era di male sposare delle donne che non avevano la stessa fede? In questo senso, Esaù era stato fornicatore. Ora, se Esaù deve essere di esempio per non commettere gli stessi errori, come mai i figli di Dio si sposano con persone appartenenti ad altre fedi? Se Esaù è stato definito fornicatore, come possiamo definire un nato di nuovo che sposa chi non ha realizzato la nuova nascita? Vogliamo noi ripetere l'errore convalidando così la tesi che la storia ci insegna che non insegna niente? L'accorato appello della scrittura a non essere profani o fornicatori deve essere preso sul serio perché, come abbiamo letto, le lacrime di pentimento causa le conseguenze di aver scelto le tenebre anziché la luce, di aver scelto le cose materiali alle spirituali. Non servono né ora né alla presenza di Dio. Sono lacrime veramente amare. Sono le uniche lacrime che non dovremmo mai versare. Che nessuno di noi sia allora profano o fornicatore come Esaù, avendo lo sguardo fisso sulle promesse di Gesù Cristo, perché verrà il giorno nel quale ognuno riceverà il suo premio. E è vero, al presente si semina con lacrime, ma si raccoglierà con canti di gioia. Gennaio 2005, Ellero.